Ben ritrovati per una nuova puntata di Coccoli al Silicio. La settimana scorsa ho saltato, ma c'avevo un buon motivo, perché ero in ritiro spirituale, che sostanzialmente questa settimana è avvenuto un evento di proporzioni bibliche che ha visto la partecipazione di diverse persone venute anche addirittura da fuori Firenze. Quindi ci siamo aperti all'interregionalismo spinto. E questo connubio di alte menti e braccia capaci ha partorito una mostra di cui parleremo questa sera, adesso che questa sera la puntata è sostanzialmente una puntata monografica dedicata completamente alla mostra BinArt, che è stata collocata in quel del Next Emerson, in una zona che sicuramente non avete mai visto, perché è una zona remota del centro sociale, quindi anche un'occasione per visitare questo buffo luogo. E niente, questa mostra che è stata organizzata in realtà per essere fruibile più che altro durante l'ACM Meeting, che sarà il 30-31 maggio, l'1-2, sempre in quelle del Next Emerson, però visto che è stato uno sbattimento enorme montare, si è detto no, non teniamola solo 3 giorni, ma teniamola per 3 settimane, quindi potete visitarla già a partire da domenica scorsa. E tu potevi dircelo la settimana prima, sì, avrei potuto, ma non l'ho fatto, e quindi io appositamente vi ho fatto saltare l'inaugurazione, però sono comunque in tempo per dirvi che comunque da qui, cioè da oggi, lunedì 13 maggio, fino a fine mese, potrete visitarla in alcuni giorni e orari ben prestabiliti, e forse anche in altri, perché comunque è una roba in fieri. Allora, questa mostra, di che si parla? In realtà, in alcune puntate di Coccoli al Silicio io già ne avevo parlato un pochino, quindi se siete attenti alla trasmissione dovreste già saperlo. Però si tratta di una retrospettiva di computer art che copre con circa 10 installazioni una fascia temporale che va dal 1961 al 2001. Per chiarirvela con delle parole non mie e quindi senz'altro più chiare di quello che posso fare io, vi leggo il breve abstract della mostra e poi magari ne parliamo un pochino con uno degli allestitori che abbiamo murato vivo dentro l'Emerson per una settimana e l'abbiamo fatto uscire solo oggi quando ha terminato, cioè ieri quando ha terminato, oggi è il suo primo giorno di libertà sostanzialmente. L'abstract, lo cito appunto tale e quale così com'è. Si tratta di un'esposizione temporanea che ripercorre la storia dell'arte digitale presentando i lavori di alcuni pionieri in una retrospettiva che parte dai primissimi esperimenti degli anni 60, attraversa la rivoluzione dell'home computing degli anni 80 per approdare, quasi al nostro tempo. E quindi niente, saluta come si usa fare i nostri Ciao, ciao a radioascoltatori. tutte, ciao a tutti. Buona serata a tutte. Bene, bene. E questi erano i convenevoli, li abbiamo espletati. E ora possiamo parlare un pochino di questa mostra. Ora, questa mostra in realtà non è un'anteprima nazionale, per questo siamo già un po' offesi. Ha già avuto una. È già stata, diciamo, è già stata montata e esposta in quel di Roma 2 anni fa, un anno fa. No, l'anno scorso è L'anno stata, scorso. questa è la seconda edizione, l'anno scorso è stata fatta al Forte Prenestino, e più o meno in questo periodo tra l'altro, Noi penso abbiamo fosse. guardato che forse erano addirittura le stesse date. Ah, proprio addirittura preciso, mi sembra Forse sì. una settimana prima o dopo, però sì, insomma siamo lì. No, Era bello se erano le stesse date, però. infatti sì, era geniale, bellezza. Senza nemmeno pensarci ci siamo riusciti. Comunque, facciamo finta che erano le stesse date, perché Esatto, così sì. tutto assume Esatto. una sua ciclicità tranquillizzante. E lì al Forte avevano una location che comunque, vabbè, era un po' più bellina, vabbè, loro c'hanno il Forte, tutte queste cose qua, c'hanno i sotterranei, però noi non abbiamo nulla da invidiare. Infatti stiamo posizionati Ma in una ex ludoteca e spogliatoio del tango Beh, dell'Emerson. è detta così, però in verità è la parte bella del centro sociale bello, perché la parte ancora più Sì, bella lo so. del centro sociale dell'Emerson, insomma. E già E abbiamo quindi. scelto il meglio Sì. sostanzialmente per voi. Ora, questo montaggio durato praticamente una settimana, a che è servito? Cioè, che cosa ci troviamo dentro questa mostra? Beh, appunto, trovate queste 10 opere che indagano, diciamo, il rapporto tra arte e informatica, nel senso, appunto, partiamo dai primi esperimenti di arte generata al computer fino ad arrivare alle demo degli anni 90, ad arrivare a esperienze multimediali di vario tipo e a arte declinata in varie configurazioni. Spieghiamo una chicca, spieghiamo la parola demo. Ah, prima la parola demo. Una delle opere presentate si chiama Nine Fingers degli Spaceballs, è del 93, mi sembra. E è una demo per Amiga 500, che è un computer che già era un po' vecchiotto all'epoca, però per cui ancora ci sono queste demo. Allora, parliamo del fenomeno delle demo. In pratica. Tutto parte, diciamo, dai videogiochi craccati, quindi queste crew di cracker che sproteggevano le copie, copiavano i giochi, toglievano eventualmente le protezioni dalla copia e poi ovviamente ci mettevano il nome perché, insomma, per farsi pure belli, insomma, un po'. E poi da lì, dal metterci semplicemente il nome all'inizio prima del gioco, cominciamo a metterci dei nomi tutti colorati, delle cose che scrollavano, degli effetti visivi e sonori sempre più carini, fino ad arrivare proprio al delirio delle grafiche, Che era molto più cose. bella l'intro del videogioco Era molto stesso. spesso, era molto bella l'intro del videogioco e tra l'altro riusciva a spingere a spingere proprio a arrivare a trovare proprio tutti i confini tecnici e superarli anche tutti i limiti della macchina il più possibile, a spremerla il più possibile e sono arrivati a cose notevoli. Alla fine hanno proprio smesso, si sono, i gruppi che facevano le intro o le cracktro come si chiamavano, si sono proprio staccati e hanno cominciato a fare delle demo, cioè insomma delle demo in cui poi dopo non c'era il gioco, cioè non era l'introduzione del gioco, ma erano proprio cose a sé stanti, e fino ad arrivare. E è una scena che poi man mano è diventata sempre più grande, negli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, facevano proprio delle convention internazionali, ce n'erano certe che erano, di solito c'erano certe a livello europeo, certe a livello tutto nordamericano, con centinaia di partecipanti. E comunque è una scena che esiste ancora e poi è buffo perché comunque sostanzialmente esiste per quasi ogni piattaforma di quegli anni che è stata mainstream dell'home computing. Sì, esiste. Cioè ci sono le demo per Commodore 64, Esatto. cioè, quella che abbiamo adesso è per Amiga 500, però... Sì, ma è che poi ancora vengono fatte demo per Commodore 64, Sì. ancora vengono fatte demo per Amiga 500. Insomma, noi. Io, per esempio, quella scena la conosco fino a un certo punto, però ogni tanto mi capitano davanti. Tempo fa mi è capitata una demo dell'anno scorso per il Commodore 64, stavo vedendo giusto ieri sera, stavo facendo vedere agli altri allestitori. Oppure qualche giorno fa stavo vedendo una demo per Amiga presentata. Adesso mi sa che addirittura mi dicevano: oh, ma è bugata, non funziona. Poi io l'ho vista, in verità funzionava, ma perché mi sa che nel frattempo, quando l'ho scaricata, l'hanno tipo aggiustata, cioè tipo proprio è quasi work in progress. Insomma, ci sono ancora queste scene funzionali. E poi, tra l'altro, essendo così grosse, poi si divenne. Siccome la sfida è proprio cercare di trovare proprio quali sono, cosa si riesce a fare con le risorse limitate di una macchina, la cosa bella è che a volte ci sono, per fare le categorie in queste gare, tendenzialmente a volte si creano anche dei limiti artificiali, tipo per esempio la demo più piccola possibile, quindi c'è la categoria le categorie per dimensioni, che adesso c'è la categoria con la demo da 64K, da 4K, da 16 kB. Cioè, la scena delle demo è sostanzialmente una scena di virtuosismi. Esatto, sì. È molto Di bello. Tra virtuosismo e l'altro, tamarraggine, sì. mi viene in mente un collegamento con l'ACMeeting di quest'anno, perché ci sarà un seminario sostanzialmente di retrocomputing su Commodore 64, su come far rivivere un Commodore 64 e collegarlo all'internet. Ah, sì, esatto, sì, Sarà il perché. venerdì pomeriggio, non ricordo l'ora, però è già Ah, nel perfetto. calendario. Beh, quello è un altro tipo di virtuosismi che sì, esce fuori dalla cosa delle demo, però sostanzialmente perché la gente spesso ha voglia di vedere cosa riesce a fare con una cosa, vedere Perché cosa. comunque è stimolante partire da un ambiente super limitato Esatto. e dovere, cioè non quello a cui siamo abituati, no? Che sostanzialmente abbiamo un mercato che spinge sempre verso la crescita delle risorse di calcolo per fare sostanzialmente cose abbastanza futili e velleitarie, e per cui ci sono telefonini che hanno più RAM dei computer che ho a casa, e quindi boh, è un mondo strano, ecco, un altro modo di vedere le cose, però questo appunto è anche l'ottica di ACMeeting, cioè quello di ripigliare la tecnologia, rigirarcela e trovarci delle cose che non sono quelle per cui quella roba è stata originariamente pensata. Esatto, sì, appunto per Commodore 64 esistono stack di CPP, esistono sistemi operativi, non so se userà Contiki o un altro sistema operativo, Non lo no, sappiamo, è infatti un'anteprima. un'anteprima, infatti Non sì, si ho può. solo supposto, non ho letto del seminario, però sì, ci sono schede di rete, schede Ethernet, ci sono client Twitter per Commodore 64, insomma c'è Sì, tutta una c'è un serie di mondo di gente cose. veramente strana. Come Esatto, sì. siamo anche un po' strani noi, e quindi va bene. E poi invece, se saltiamo le cose super, super tecnicose, parliamo invece di quelle che sono più retro. Cioè, tra le cose esposte ci sta anche un oggettino minuscolo che ricrea un'opera di Nanni Balestrini. Esatto, sì. È un'opera che si chiama Tape, una ricostruzione di un'opera che si chiama Tape Mark One, del 61, è l'opera più vecchia che abbiamo in esposizione. Fa parte in verità di un gruppo di tre opere che sostanzialmente si occupano proprio degli anni 60, tutte e tre, che si occupano proprio diciamo della generazione cioè sono tre opere che in pratica dove è la macchina a generare l'opera d'arte, un'opera d'arte ogni volta diversa, e l'uomo dà in input solo, diciamo, cioè l'uomo crea il programma, poi è il programma che fa l'arte vera e propria. E quindi questa qua la prima opera d'arte, appunto del 61, Tape Mark I di Nanni Balestrini, che è un poeta, un artista poliedrico, insomma, che, come dice Umberto Eco, è l'unico poeta che io conosca che non ha mai scritto un verso di suo pugno, perché ha sempre lavorato usando e ricombinando opere di altre persone. Non ha mai fatto niente di suo, se vuoi, tra virgolette. E nel 61 era esordiente, aveva 27 anni in pratica era sponsorizzato dalla Bompiani, perché poi questa opera sarebbe uscita l'anno dopo, nel 62, nell'almanacco Bompiani della letteratura, che era proprio dedicato al rapporto, anche quello all'uso delle macchine nelle arti, i primi utilizzi dell'arte per le macchine. Quindi ha fatto una specie di, diciamo, happening tra virgolette, perché poi in verità anche lì bisogna capire qual è l'opera d'arte, e adesso capiamo anche perché. In pratica, sostanzialmente, lui ha creato un programma per computer che prendeva tre opere, tre poesie preesistenti, due poesie e una prosa, e le ha divise in versi, gli ha assegnato dei codici secondo delle logiche sue. E poi ha creato un programma che li rimescolava insieme. E secondo Vogliamo dire so quali sono le tre opere? Ah, le tre opere sono sì, Diario di Hiroshima di Michihito Akiya, Il mistero dell'ascensore di Paul Godwin e Tao Te Ching di Lao Tse. Sono appunto tre opere che lui ha preso e l'ha divisa in parti, insomma, in parti secondo delle regole che sue, che non ecco ben capito effettivamente, però secondo delle regole che lui riteneva Vabbè, si è adatte. inventato Sì, un algoritmo si è con inventato delle. un algoritmo, esatto, e poi l'ha fatto insieme a un ingegnere dell'IBM, ci siamo messi lì, l'hanno fatto questo algoritmo in formato macchina, cioè leggibile alla macchina, la macchina ha preso queste tre poesie e l'ha mischiata insieme e ha tirato fuori 3.000, no, 3.000 versi mi sembra, ha tirato fuori tipo 3.000 versi tutti ricombinati. E da lì lui ha scelto proprio un trancio che gli piaceva. Ci ha detto: questo trancio lo scelgo io, mi piace, e questo è quello che pubblicherò sull'almanacco. Però sull'almanacco, in verità, non ha pubblicato solo quello, ma ha pubblicato un articolo dettagliatissimo su come era stato fatto il programma. C'era tutto il diagramma di flusso del programma, c'erano i codici assegnati ai vari versi, perché lui era molto interessato, era forse più interessato al metodo poi che Che ha al risultato. formalismo Sì. che al risultato. E quindi niente, ho fatto questo articolo, e in pratica poi i ragazzi del museo, dei due musei che organizzano questa mostra, poi vi dirò meglio chi sono, hanno deciso di fare una ricostruzione qualche anno fa, perché poi in verità questa cosa è stata fatta alla Cariplo di Milano, e sia la Fondazione Cariplo, sia la Bompiani, che tutti quanti non si trovano più le schede perforate di questo programma, quindi queste sono andate perdute. Quindi hanno fatto una ricostruzione partendo dall'articolo, e hanno contattato Balestrini, che effettivamente l'ha guardato come funziona questo programma, ha detto: sì, va bene, lo considero come una ricostruzione valida del mio. Vabbè. E quindi hanno costruito, insomma, E quindi un è nato un oggettino di. oggettino Un che oggettino è di legno buffo che poi perché in invece verità. è esatto. Sì, In che origine doveva essere un computer grosso in come una origine era un stanza che faceva mostro, questa sì, cosa, perché il sì. computer noi abbiamo in esposizione un articolo dell'Espresso che parla di questo computer che fa rumori, cioè lampadine, cose eccetera, eccetera, è lungo 4 metri e mezzo, ma in verità era molto più grande il computer, 4 metri e mezzo sarà stata sì e no all'unità centrale. Partiamo di un tempo, il 61, dove c'erano stati 5 computer in tutta Italia, 10 sì e no, usava tutto un cavo di una banca, usava tipo tutto, erano stati centinaia di metri quadri di computer, insomma. E invece noi abbiamo fatto un cosettino con una scherma 5 pollici e un Raspberry Pi dentro. E così, parlavo di. Se no parliamo di un'altra Sì, no, io opera. Se infatti più che altro volevo parlare vogliamo di chi ha parlare di chi ha organizzato, nel senso, organizzato, esatto, perché va non ci ho bene. pensato prima. Allora parliamone. Ok. Parliamo del Museo di Informatica Esatto, Funzionante. quest'opera in pratica è organizzata da due musei che però si sono fusi in un museo solo, che sono il Museo dell'Informatica Funzionante, il MUSIF di Palazzo Anacreide, e il MIAI, che è il Museo dell'Archeologia Informatica di Cosenza. Che ormai si sono fusi in una entità sovraregionale, diciamo così, Anche e sono un loro. unico museo, Cioè, il esatto, sì. futuro è Esatto, l'interregionalismo. sì. E quindi fanno tutte queste cose da anni, insomma, sono realtà che ci sono in verità da parecchi anni. E hanno più, insomma, degli amici del museo sparsi in giro, ecco. Ogni anno fanno anche il calendario. Ogni anno Lo so fanno il perché calendario, io ce n'ho compratelo. 20 copie almeno. Esatto, compratene perché sono Comunque, bellissimi, ad sempre bellissimi questi. Acmeeting troverete anche questi calendari, non ve ne fate più niente perché ormai siamo a metà anno, però come oggetto da collezione sono bellissimi. Anche perché c'erano E tutte le foto della mostra precedente, tutte le opere esposte. comunque poi sul blog vi metto insieme al podcast della puntata anche i riferimenti se volete andarvi a vedere i loro siti, se siete degli appassionati di questa roba. In realtà ci avevano anche una sezione di vecchi computer raggiungibili dall'internet, Sì. quindi vi potete loggare, che ne so, su un VAX, su de delle piattaforme strambe. Non sono sempre tutte accese, però se voi in maniera, cioè insomma, se periodicamente andate a guardare, prima o poi quello che desiderate lo riuscirete a vedere. Sì, perché ogni questa tanto cosa c'è ti un po' interessa. di non digital divide, ma di electrical divide, perché Sì. ogni tanto va via la corrente, c'hanno degli UPS mostruosi, però a volte non bastano nemmeno quelli, quindi ogni tanto va giù qualche server, però sì, insomma, Comunque, sono accessibili. abbiamo avuto l'onore anche di ospitare appunto questi altri due installatori della mostra in questi giorni e poi sono andati via e hanno lasciato luce. Loro li abbiamo liberati prima e così, per più di tanto, poi hanno minacciato che ci citavano per rapimento e non, insomma, ci denunciavano e quindi se ne sono andati. Invece, volevo parlare di una roba perché è stata fatta da una attuale residente a Firenze e comunque, insomma, da qualcosa di campanilista ci voleva. Si parla in realtà di questa volta di un fumetto fatto in maniera abbastanza atipica per l'epoca, cioè oggi non sembra una roba strana, però ai tempi era assoluta avanguardia. Si tratta di un fumetto dal titolo Giovanotti Mondani Meccanici e magari illustraci meglio. Stiamo parlando questa volta degli anni 80, quindi abbiamo fatto un salto agli anni 60, boom, ci proiettiamo in pieni anni 80. Sì, facciamolo così senza una cosa, perché tanto la mostra non ha una linearità, quindi è possibile Ma visitarla io non anche so senza neanche se problemi. le citeremo tutte Ah, le opere, ok. se no la puntata mi sa che dura 6 ore e non. Ok, sì, infatti. Sì, da Firenze direttamente Giovanotti Mondani Meccanici di Antonio Glessi e Andrea Zingoni. Tra l'altro Antonio Glessi c'è anche venuto a trovare ieri all'inaugurazione. È il primo fumetto fatto al computer in Italia. L'ha fatto su un Apple II, che è una macchina di fine anni 70, che però nell'84, quando è stato fatto questo momento, era ancora usata, E insomma. C'è c'è, nella mostra c'è. C'è. nella mostra, c'è bene, tutto questo, sì, c'è questo computer. È uscita su Frigidaire numero 84, mi sembra. Vabbè, insomma, su un Frigidaire, che devo dire era notevole il fatto che pubblicasse sia, cioè, nello stesso numero, per esempio, c'era sia quest'opera prima dei Perfetti Sconosciuti, sia un racconto di Gabriel García Márquez, quindi proprio di Bomba. tutto. E questo fumetto è fatto al computer, nel senso che loro avevano questo Apple II. E un computer a bassissima risoluzione, molto anche scomodo da usare, con questa tavoletta grafica. Loro disegnavano sulla tavoletta, qui già c'era il problema che disegnavano sulla tavoletta grafica e poi le cose le vedevano su schermo, quindi non con la penna, quindi già quella è una difficoltà. Poi in più il programma era macchinosissimo, noi l'abbiamo visto l'anno scorso alla mostra, ha fatto un light painting, era delirante da usare, e poi soprattutto non avevo un modo di stamparle queste immagini, perché non c'era una stampante che permettesse di stamparle, quindi hanno praticamente fatto le foto allo schermo e poi hanno creato, insomma, una maschera in cui ficcavano proprio le diapositive e poi da lì facevano la litografia, o insomma Comunque non so che processo il usassero, risultato era insomma. buono, è Il bello. risultato è ottimo, devo dire, sì, insomma, sono stati pure Cioè, lo bravi a vedete fare le perché c'è foto. la rivista originale, la potete sfogliare, oltre a Esatto. vedere lo slideshow, e quindi boh, si può vedere che è bello. È bellissimo, è interessante anche la storia, è molto forte, molto, molto con un'estetica estremamente cyberpunk, Sì, insomma, c'è gente con i capelli verdi. dei capelli verdi, esatto, sì. È molto, molto interessante qualcosa. Ma mettiamo della musica e così schiariamo la voce, poi raccontiamo un altro paio di opere e poi ce ne andiamo tutti via. E rieccoci dopo l'intermezzo d'obbligo musicale e pensavamo di presentare ancora almeno una delle opere, magari citare le altre, dopo esserci a lungo consultati, no, a lungo solo nel pezzettino dell'intermezzo musicale, abbiamo deciso di parlarvi di un'altra opera maccheronica, l'Ashikam. Che cos'è? Ashikam, sì, esatto. È un'opera che in se stessa è molto particolare. In pratica, sostanzialmente c'è un computer che vi riprende mentre passeggiate per il corridoio dell'installazione e converte il video delle vostre riprese in ASCII Art, cioè vedete la vostra faccia, insomma, convertita in caratteri ASCII. Questo Che cos'è un perché carattere hash? caratteri ASCII sono i caratteri del computer veri e propri, quindi troverete tutta la vostra faccia convertita in tutte in delle A, delle X, dei puntini, a seconda delle luci e delle ombre. E magari spiegarlo per radio effettivamente è pure un po' complicato, però se voi cercate ASCII Art su internet troverete un sacco di cose, perché è un'arte che viene dagli albori dell'informatica. In realtà viene anche da prima, da fine 800, perché all'inizio si faceva con le macchine da scrivere, ficcando il foglio dentro e facendo con le lettere, facendo tutti i disegnini, girando il foglio, facendo cose. Bomba. E poi, però, nell'informatica è stato utile perché i primi computer non avevano schermo e avevano solo delle telescriventi che però facevano solo i caratteri delle macchine da scrivere, erano macchine da scrivere elettrica, alla fin fine. E quindi per fare un'immagine l'unico modo era fare ASCII art, cioè arte con i caratteri. Quindi se volevi fare qualsiasi cosa, poi negli anni 80 è stato molto utile perché i formati di immagine non erano ancora standardizzati e comunque c'era poca banda con le BBS o con i primi internet, la prima internet, c'era molta poca banda, quindi si facevano comunque i disegnini in ASCII art. E quindi però un'arte che comunque è talmente bella che poi è rimasta anche ai giorni nostri, si continua a fare senza problemi. E che altro? E in verità quest'opera è stata fatta da Jaromil, che è una frequentazione che molti di voi conosceranno, specie del Ci giro sarà, hacker anche a questo italiano. Hack Meeting Ci sarà farà un anche questa. seminario su Tomb. Ok, che è una delle cose che ha È un fatto. tool crittografico che presenterà, Sì, beh, penso, le evoluzioni, perché lo, ce il l'ha. tool è ormai stabilito Il da tool, anni, quindi sì, esatto, so quindi. che ci stanno lavorando, non ho E anche seguito come. questo sarà, penso, il sabato, credo. Il sabato, sì. E quindi ho potuto fare questa cosa un po' appunto per l'estetica, in verità un po' anche perché. Siccome si occupava, come tanti di noi, si occupava di media attivismo all'epoca, aveva fatto anche una distribuzione che avevano lui e altre persone di Dyne.org, avevano fatto una distribuzione live su CD che si chiama Dyneabolic, che era piena di strumenti per media attivismo. E quindi questo l'aveva fatto un po' anche per fare streaming con poca banda, streaming video con poca banda, perché gli permetteva, insomma, anche con un modem, con l'upload limitato di un modem, di fare dei video, anche se comunque magari meno leggibili di un video vero. C'era anche una funzionalità per fare tipo webcam, insomma, era molto interessante, ecco. Tra l'altro è esposto anche Korova, che è il computer che usava all'epoca, con cui ha scritto questo programma, che è una valigia con dentro un PC fisso che lui usava per andare in giro, che adesso penso non passerebbero mai i controlli di sicurezza in aeroporto dopo il 2001. Non c'ha neanche il tasto per accendere e si spegne. Sì, lo Cioè devi accendiamo toccare due tipo fili, i sì. motorini rubati, qualcosa con i fili, sì. Esatto. E quindi lui praticamente si portava in giro la valigia e poi gli faceva prestare un mouse, una tastiera e uno schermo e lo poteva usare come portatile in pratica. Allora, diciamo che con questo forse potremmo concludere la nostra carrellata, anche se le opere sono di più, le potremmo citare. Sì. Ma risparmiare gli ascoltatori dalla nostra voce per le prossime 6 ore, e quindi le leggo solo, cioè tutte quelle che non abbiamo, di cui non abbiamo parlato diffusamente. Questo si legge GE o GE? GE115, il nome del computer. concerto. Si tratta sostanzialmente Musica generata dal computer. proto, però, perché questa roba è del È la 1967. prima volta che è Se stata no uno sembrerebbe, vabbè, generata. ma che ci va, fa suonare al computer, e invece no. È stata la prima volta che in Italia è stato fatto suonare un computer. Poi ci sarà, c'è un plotter che sostanzialmente produce una distorsione di figure regolari. Produce sì dei quadrati che si man mano partono dalla regolarità e poi si sparpagliano. L'opera si chiama Schotter, che significa ghiaia in E anche tedesco. questo è interessante perché tutto questo non c'era prima, cioè loro hanno scritto. Quest'opera è di Georg Ness, che apparentemente è stato il primo che ha fatto una mostra d'arte. È stata la prima mostra di computer grafica che sia mai stata fatta. Ah, e poi qui c'è il Commodore 64. Sì, c'è un'opera che abbiamo chiamato 10 Print, che paradossalmente è una. No, c'è scritto anonimo perché in verità sta dentro il manuale del Commodore 64, come esempio. Quell'originale, quello che ti davano quando Cosa lo ti davano? comperavi. Però è un one-liner molto bello e quindi abbiamo deciso che è un'opera d'arte. Wineliner sarebbe una roba fatta in una sola riga di codice, Esatto, che però che però fa produce cose. degli effetti interessanti. Macintosh Icons. Sì, Susan Kare dell'83, lei in pratica è stata quella che è stata che ha creato tutto il linguaggio visivo del Macintosh e l'ha fatto tutto su dei fogli a quadretti perché non c'era ancora il Macintosh, quindi che lo stavano creando loro e quindi faceva le icone sui fogli a Giustamente. quadretti. Ecco perché sono tutte così. Eh sì, Ora ho no, capito vabbè, quella perché è le ha limite. fatte sul foglio a quadretti. No, vabbè, quella è limite tecnologico, eccetera, però sì, Ah, l'ha non disegnato su. avevo capito. E Freak Freak Show è dei Resident, che è un gruppo di pazzi furiosi, un collettivo artistico che è nato a fine anni 70 e ancora va avanti e che nel 94 ha fatto una visita virtuale a un freak show, a un circo Barnum, diciamo, di freak. Show è un gioco esplorativo Sì, è sostanzialmente, come. una realtà, sì, un'esplorazione di questo freak show. Come anche l'ultimo che citeremo, che è LSD Dream Emulator. Sì, questo è Osamu Sato, che è un videomaker e creatore di videogiochi giapponese, che ha creato questo simulatore di sogni che genera sogni, ma no, non è un gioco, è che tu esplori senza rischio Non di vinci morire, niente. non vinci niente, non perdi niente, non rischi di morire se ti butti di sotto, comunque va a finire al prossimo Entri in un altro coso, sogno, sì. è proprio tranquillo, tranquillo, senza cose. Però i sogni vengono generati a seconda di quello che hai fatto prima, cioè Va siano bene. tutti riseguiti uno E con questo sull'altro. abbiamo fatto la nostra visita radiofonica alla mostra. Ora vi invitiamo a venirla a vedere. Ora dovrei a questo punto, se fossi un bravo conduttore, dirvi anche gli orari di apertura, che però citerò a memoria, quindi non so se ve li cito giusti, ma penso di sì. Calendario alla mano. Allora, il primo giorno di nuova apertura, dopo l'inaugurazione che è stata domenica, sarà domani. Martedì 14 maggio, dalle ore 18 alle 20:30 circa, quindi è un orario preserale, ma si chiude abbastanza presto. E poi si riaprirà sabato 18, dalle 18 alle 24, stesso orario anche per domenica 19 maggio. Poi si salta alla settimana dopo, di nuovo il martedì con orario ridotto 18, 20 e 30. Poi invece cambiamento giusto per confondere, venerdì 24, quindi si anticipa di un giorno rispetto a questa settimana, con orario però 18, 24. Poi di nuovo sabato 25 con orario sempre 18 mezzanotte e poi si arriva alla settimana che è quella entrante di Hack Meeting dove nei giorni di Hack Meeting ci sarà un'apertura non perenne ma comunque su delle fasce orarie più articolate, quindi si parlerà di mattina, pomeriggio, sera Sì, si sostanzialmente. daranno gli appuntamenti fissi, Sì. cioè tipo si metteranno in cartellone proprio, cioè, e si farà il gruppo con la bandierina, tipo Sì, così. che parte probabilmente da Hack Meeting e si marcia con il gruppo verso il tango. Quindi verranno pubblicati sul sito insieme al programma di Hack Meeting. Ci sarà anche la stanza di fianco, l'ho già aggiunta con degli orari fatti presi completamente a caso, quindi non veritieri. Insomma, ci sarà anche l'orario della mostra BinArt. Venite qui e si va in là tutti assieme. Nei giorni prima, dobbiamo ancora decidere, nel senso che vedremo. Nel senso che Hackmeeting inizia i giovedì. Forse apriremo anche il martedì, però diciamo verrà e jolly. Dipende se arriviamo sui gomiti a questa cosa o no. Se invece arriviamo in scioltezza e ci sentiamo sicuri di noi, lo faremo. E niente, questo è quanto per la mostra BinArt. Essendo una puntata monografica, non mi sento in dovere di dire nient'altro. Ah sì, no, il sito, è certo, cioè, ho parlato mezz'ora, anche se i siti io poi li metto tutti sul blog, però effettivamente questo è pure facile da dire una volta, binart.eu è il sito ufficiale della mostra, dove tra l'altro trovate anche le schede delle opere e quindi vi fate anche un'idea più precisa. Trovate le schede delle opere e poi trovate anche degli invariati materiali aggiuntivi, trovate delle video interviste, alcuni degli autori o altre persone relative, insomma, Ah, e ci vedi, sono c'è tanti materiali in più l'espansione anche. con materiale didattico. Sì, esatto, sì. Forte. L'intervista a Gressi, l'intervista a Lo Giuliana. potevo guardare meglio il sito, no? Visto che. Da E lì. poi altri riferimenti. Vabbè, se non abbiamo detto forse bene dove si trova. Si trova Next Emerson a Firenze in via di Bellagio 15. Questo lo dico perché il podcast è ascoltato in tutta Italia, essendo io appunto fautore dell'interregionalismo spinto, e quindi per chiarire che si trova in quel di Firenze. E basta, con questo rimettiamo la musichina sperando di non fare come al solito che la musica è finita, io tiro su e non c'è niente. No, no, c'è, me ne sono sincerato. E vi do appuntamento al prossimo lunedì, che sarà appunto il lunedì già prima di Hackmeeting, e quindi per forza di cose, secondo me parlerò di Hackmeeting, mi sa. Oppure sono talmente stanco che proprio la puntata non la faccio. Una di queste. Ciao a tutti. One, two.